Ora vogliamo tornare però, caro Leonardo, su un tema un po' più leggero, un tema. Devo dire che abbiamo scoperto un paio di giorni fa che tu hai un passato da cantante, cantautore, anzi cantautore. Ah beh, sì, certo. Cantautore. Ma io sono, l'ho detto ieri, anche in questi giorni, sono poliedrico, so fare tante cose diverse. Sì, sì, tengo, sì, certo. So anche stirare ultimamente, ho imparato anche a stirare. No, ma questa cosa non capisco perché ce l'hai tenuta nascosta per tanti tanti anni. Ricordiamo il mitico successo di Lombrico Amico, ci hanno riversato, ci hanno chiamato praticamente per scritturarti. Da metà case discografiche del mondo. Sì, che... L'Ombrico Amico è una canzone rock molto, anche con un tema importante, quindi sì. Non c'è da fare ironia. No, no, ma infatti non ero ironico. Bisognerebbe chiamare Carla Rocchi per... La nostra, perché anche i lombrichi dell'Empa hanno diritto a essere sostenuti, certo, non solo gli, certo, orsi. E allora, visto il grandissimo, come si dice nelle belle trasmissioni, visto il grandissimo successo dell'anno scorso, oppure di due giorni fa, oggi vogliamo un'altra canzone. Un'altra canzone. Oh, questa è una canzone con un tema importante, sull'essere responsabile dei cittadini, fino a che punto lo siamo e quando cominciamo a non esserlo più. Ah. Oppure cosa ci fa cessare, smettere di essere cittadini responsabili. Questo è il tema fondamentale di questa canzone. Che quindi si intitola? Sono anche cittadino responsabile. Cittadino responsabile, mi sembra. Oh, ragazzi, ma siete pronti? Ma stiamo scoprendo una carriera di Leonardo Manera nascosta. Cittadino responsabile di Leonardo Manera. Canta Leonardo Manera, suonano gli Inadatti. Ah, va bene, come Lombrico Amico. Sì, sempre loro. Sempre la vostra compagnia. Alessandro Carlà, Stefano Melchiorre, Eugenio Mori e Marco Rampoldi. Vabbè. Cittadino responsabile. Io sono un cittadino responsabile, equo, solidale ed impegnato. E tutto quello che succede intorno a me coinvolge pienamente il mio vissuto. E se qualcuno piange, piango anch'io. E se qualcuno soffre, soffro anch'io. Ma ho trovato parcheggio proprio qui sotto casa. Senti i fiati. E va tutto già meglio, ed è il mondo più rosa. Si ho trovato parcheggio proprio qui sotto casa. E i problemi degli altri e chi se ne frega. Sono felice e beato e stasera non vado a nessuna riunione di volontariato. Guardo la TV in mutande, la TV. Guardo la TV in mutande, la TV. Sai che la preferisco? Con la macchina sotto casa. Rispetto all'Ombrico Amico. Amico. Aspetta, senti che... Il mondo è pieno di problemi. Il Libano, l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan, la mafia, la camorra, l'andrangheta, la rivoluzione idrica. Ma io ho la macchina sotto casa. Io sono un cittadino responsabile, equo, solidale ed impegnato. Mi batto per un mondo più vivibile, mi batto per un mondo più sensato. E quando un bosco brucia, brucio anch'io. E quando un panda muore, muoio anch'io. Ma ho fatto cinquina giocando all'otto. È un colpo di culo, sì, è vero, lo ammetto. Sì, ho fatto cinquina giocando all'otto. Io me ne fotto e sperpero tutto in donne e motori, prostitute di lusso e vacanze bestiali. Guardo la TV in mutande, la TV. Guardo la TV in mutande a Malibu con la macchina sotto casa. Se c'è ancora un bosco libero lo brucio e faccio dei box. Signori, box. Cittadino responsabile, bella, bella. Mi piace molto di più questa di Lombrico Amico, che era più rock, questa come la cataloghiamo. Ma questa è un swing. Swing. Meno swing. Ma dovete ancora ascoltare la mia hit, Mastella No, di qualche anno fa. Ma stupendo. Mastella No, che passò anche in varie radio, tra l'altro. Magari. Anche a Radio 1, male. Per ma dirne è uno. Un inno contro Clemente Mastella? No, è una cosa sulla casta. Sai che si parlava molto della, sì, casta, certo, quando uscì il libro, no? La casta. Allora si arrabbierà molto Mastella, sei sicuro? Sei pronto alla querela di Mastella? No? Non lo so. Vabbè, magari nei prossimi giorni allora. È del 2013, se non sbaglio. Domani, Mastella. Domani la abbiamo porto. Ancora due puntate, sì, prima delle vacanze. Sì. Sei sicuro che la porti? Certo. Dobbiamo sopportare. Io sono molto affidabile come persona. Allora ragazzi, beh, sono davvero sorpreso da questa da queste virtù canore del nostro Leonardo Manera, il nostro signor Bonetti. È per quello che dico che meriterei un aumento. Perché sì, qui guarda, posso fare monologhi, personaggi, canzoni, interagire seriamente. Ma guarda, forse per me. Ma a proposito, hai firmato 13.000 per... euro netti al mese. Adesso non esageriamo, anche lordi. Hai firmato per settembre a posto? No, non ancora. Ho saputo che ci sono delle preclusioni nei miei confronti. Vabbè. Quindi devo superare queste appunto preclusioni. Queste perplessità che ci sono nei miei confronti da parte di Confindustria. Allora potrebbe essere uno degli ultimi tuoi momenti questo, vivilo con l'intensità giusta. E ti ricordo ai nostri ascoltatori che da un paio di giorni questa settimana è iniziato un viaggio per raccontare questi mesi segnati dal virus. Sì, attraverso delle parole simboliche di questo periodo. E oggi comincerei con una parola che secondo me è abbastanza significativa di questo periodo, che è candeggina. In coda fuori dal supermercato, mentre aspettavamo pazientemente il nostro turno con la mascherina, ci siamo accorti che una delle cose principali che il coronavirus ci ha tolto sono stati gli sguardi. Io ho provato ogni tanto a guardare altre persone, ma non ero mai ricambiato nemmeno negli occhi, qualcuno concentrato sul telefono, altri assorti, ciascuno nei propri pensieri. Il pensiero appunto che mi pareva di poter cogliere era: facciamo presto e poi torniamo a casa, che stare fuori non va bene e mi mette anche ansia. Quasi tutti eravamo vestiti con tute o pantaloni che non necessitano di cintura, anche per il terrore di non dover verificare di quanto sia dovuto spostare il buco a quella cintura. E soprattutto ognuno era sospettoso verso il prossimo, cercando di individuare più o meno inconsciamente chi poteva essere il portatore di virus. Una mattina i più vicini a me erano una donna sui 40 anni e un giovane sui 30, e allora li ho guardati. Ho cercato di capire chi poteva essere il più ligio alle regole, come tenevano la mascherina, come erano vestiti. Ho cercato di dare uno sguardo dietro alle loro orecchie per vedere se erano pulite, perché mia madre me lo diceva sempre: è importante lavarsi dietro le orecchie, e se una persona è pulita lì è probabile che tutto il corpo sia ben tenuto e fresco di sapone. Insomma, una specie di fisionomica emozionale basata su criteri del tutto irrazionali, non scientifici, ma giustificati in qualche modo dalla preoccupazione. Sono arrivato alla conclusione che il più a rischio di coronavirus era il ragazzo più giovane, e senza volerlo ho fatto un passo verso la signora, che a sua volta, identificandomi forse come un soggetto a rischio, si è allontanata di due passi da me. Era tutto uno spostarsi impercettibile, cercando una sicurezza che non può mai esserci al 100%. E questi spostamenti verso uno o verso l'altro è come se comunicassero un "non mi fido di te", anche se non so perché, in silenzio, con lo sguardo abbassato, con gli occhi che non ridono mai. Poi si entrava nel supermercato come se fosse il giardino dell'Eden, in cui trovare tutto il necessario per vivere felicemente. E allora respiri un po' rilassato, perché quel luogo, il supermercato, lo conosci, ci sei già stato tante volte, hai i tuoi punti di riferimento, sai dove trovare le insalatissime di tonno, i bastoncini di pesce, le merendine senza olio di palma, che prima del coronavirus sembravano il nemico numero uno dell'umanità. In quel momento passa accanto a me una signora anziana, anche lei con mascherina. È il primo momento in cui ho guardato una persona come una persona normale e non come una palla di coronavirus travestita da essere umano. L'ho guardata e per un attimo sono riuscito a scambiare uno sguardo con lei e lei con me. Ma poi quell'attimo di umanità è svanito subito quando entrambe le nostre mani si sono allungate velocemente verso la candeggina quasi esaurita sugli scaffali. La candeggina ci aveva fatto tornare alla realtà. Ma uno sguardo almeno c'era stato. In tempi di coronavirus, tutto sommato, ci si può accontentare anche di uno sguardo per farci ricordare che dietro le paure, dietro ai virologi, dietro le mascherine, dietro le conferenze stampa, dietro tutti i problemi della vita c'è anche la vita stessa. Peccato che con quella signora sia finita lì, perché aveva due occhi così belli che quasi quasi, nonostante l'età, in tempi normali forse ci avrei provato. Ma sarà per la prossima candeggina, anche perché dovevo tornare a casa da mio figlio, perché un'altra delle parole chiave di questo periodo è figli. Il genitore non è un esperto che sa riempire i tempi vuoti dei figli, Per questo motivo, infatti, molti genitori fanno due figli, perché pensano: se un giorno verrà un virus e i miei figli saranno costretti a casa, giocheranno tra loro e io non dovrò darmi da fare per occupare le loro giornate. Il dramma, infatti, è per chi ha un figlio unico, già senziente, desideroso di giocare e divertirsi. Se c'è un solo figlio, il padre o la madre vorrebbero abbandonarlo tutto il giorno davanti a qualche video o a qualche videogioco, ma poi subentra un minimo di responsabilità, di senso di colpa. Quando il figlio si attacca al videogioco, al genitore verrebbe la tentazione di dire: ma sì, stai lì, gioca pure tutto il tempo che vuoi, che io intanto faccio altro, finisco di lavorare, cazzeggio su Facebook, faccio un po' di palestra casalinga. Insomma, la soluzione sarebbe lì a portata di mano: il videogioco al quale il figlio potrebbe attaccarsi senza disturbare per 12-15 ore. E tra l'altro è proprio quello che il figlio vorrebbe fare e che lascerebbe il genitore tranquillo per tutta la giornata. Sarebbe la scelta ideale. Contento il figlio, contento il genitore. E invece no, il genitore ha l'ingrato ruolo di proibire proprio quello che desidererebbe. Sì, perché in verità il genitore lo pensa: figlio mio, attaccati alla PlayStation, lasciami in pace. Invece no, per un fintissimo senso di responsabilità il genitore si trova a dover dire controvoglia: no, coi videogiochi ci puoi giocare al massimo un'ora e basta, ci sono tante altre cose belle da fare. Ma è proprio in quel momento che da parte del figlio arriva la domanda alla quale il genitore non può, non riesce mai a rispondere. È la domanda alla cui risposta non soddisferà mai il figlio, soprattutto perché nemmeno il genitore ci crede. Quando il genitore dice: ci sono tante altre belle cose da fare, la domanda impossibile che fa il figlio è: cosa? Il genitore, dopo un silenzio tombale di 30-40 secondi, tenta risposte improbabili. Leggi un libro. Ma il figlio, non avendo mai visto i genitori leggere, sa bene che è una proposta irrealizzabile. La proposta cade nel vuoto, anche perché spesso in casa non ci sono libri, se non finti. Oppure il genitore dice: inventati un gioco. In questo caso il figlio risponde: sì. Ma quale? Il genitore resta qualche secondo in silenzio, non sa cosa rispondere e scappa in bagno. Terza possibilità di risposta al genitore è: io, quando avevo la tua età, non avevo bisogno di tante cose per divertirmi. E a cosa giocavi? Risponde il figlio. A quel punto il genitore si rende conto nell'infanzia di essersi divertito pochissimo e scappa in bagno. Col genitore in bagno il campo è libero e il figlio, che ne esce sempre vincitore, può tranquillamente dedicarsi ai videogiochi. Il genitore, chiuso in bagno, fa una doccia dove cerca di eliminare i sensi di colpa e poi, verso sera, per riuscire finalmente a fare qualcosa col figlio, dice: dai, vieni qui che guardiamo insieme la TV. E finalmente tutto si ricompone. Tutto meraviglioso, però io questa storia dei libri finti a casa sinceramente non riesco a mandarla. Li ho visti anche a casa tua. Ma non è vero, no, se c'è una cosa che non mancano a casa mia sono i libri finti. Sono quelli dove tieni le chiavi. No. Sono tantissimi, se dico purtroppo troppi, nel senso che non ho più spazio per tenerli. Ecco, io ci tengo, per esempio, perché... ecco, siccome so che mio figlio non va verso i libri, io ho libri finti, dentro tengo i profilattici. Eccoci qui, cari ascoltatori, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, caro Leonardo, questo è un momento anche un pochino difficile, perché abbiamo deciso di riproporvi l'incontro che abbiamo fatto con una persona che soprattutto era tuo caro amico e che ci ha lasciati, vale a dire John Peter Sloan, che tu hai conosciuto quando? Tanti anni fa, credo fosse il 92, 90, i primi anni 90, adesso non ti so dire esattamente l'anno, ma erano gli anni in cui si facevano i provini a Zelig, si facevano di mattina, ci si trovava tutti i comici davanti al locale, poi il locale apriva e c'era anche lui. Però mi incuriosisce anche questa cosa, perché tu fossi lì, lo posso capire. Come mai John Peter Sloan è finito lì? Ha fatto anche Zelig. Lui è arrivato poi in realtà a Zelig quando Zelig ha dedicato delle serate alla comicità fatta da comici stranieri, quindi c'era lui, ma c'erano anche comici di tante altre parti del mondo. Per esempio ricordo il mio amico Pablo, argentino, anche lui faceva queste serate laboratorio tutte di comici stranieri, dove inizialmente erano in italiano, poi invece Zelig dedicò anche una serata alla comicità in inglese, in cui John era un protagonista. Certo. John Peter Sloan, lo sapete, è mancato di recente all'improvviso e spesso veniva qui a trovarci, spesso lo chiamavamo per così fare due chiacchiere, cercare di entrare un po' in sintonia col suo essere così esuberante, così sempre simpatico. E allora vogliamo riproporvi questa chiacchierata che abbiamo fatto con lui l'ultima volta che è venuto proprio a trovarci fisicamente in studio in occasione dell'uscita del suo ultimo libro Welcome to Italy, in cui racconta tutto l'amore che lui ha per l'Italia e gli italiani. Vogliamo sentire allora la sua voce. For years they embraced the economic, the key economic beliefs, the best country, a flag of a country, to our country's most urgent needs. Our country, we will welcome you. And it will not be easy. However, please visit Italy. He left Italy, the best country in terms of opportunities. But a universal message of freedom ever. Democracy. A genius. Step child adoption. English is very good. Abbiamo voluto accogliere così negli studi di Radio 24 Live John Peter Sloan. Good morning. Hi, good morning. Sì, bisognerebbe anche chiedere allora, a qualche inglese di parlare italiano, pure, altrimenti ci sentiamo sempre John, miserrimi. Erano Conte, Renzi, Berlusconi, Rutelli, erano insomma... Sai qual è il mio preferito però? Qualche. Perché li ho sentito tutti e poi ovviamente quando fanno certi gaff mi intasano l'inbox con questi video. Il più bello Renzi... Perché, non, perché è molto importante imparare la pronuncia di certe cose, se no dici altre cose. E lui ha detto, per gli italiani, it's very important the others. Non ha detto others, che vuol dire gli altri, ha detto others, che sono le mammelle delle mucche. No? Le mammelle delle mucche. È andato in tutta Europa dicendo quanto per gli italiani le mammelle delle mucche sono importanti. E poi c'era l'altro che non mi ricordo il nome, che... Tu sai come si dice pace in inglese, Ale? Pace. Peace. Lei a dirlo? Peace. Ok. Ok, non è male. Non è male. Però peace. Se dici peace, peace è piscia. Peace, peace è pace. Allora, quel politico italiano che diceva bring the peace to Italy, we want peace. Cioè, portati la piscia in Italia che abbiamo bisogno della piscia. Ho detto, era meglio le mamme delle mucche a questo punto. A questo punto, molto meglio. Va bene, il vulcano John Peter Sloan è venuto a trovarci. Dalla Sicilia. Dalla Sicilia, sì. Ormai vive in Sicilia. Infatti ha detto che odia Milano, basta Milano. Odia! Leo, ti ho detto quanto è pericoloso prendere un caffè con lui prima di aspettare. No, hai detto odio Milano. Perché Leo è più cattivo di me. Non è vero, ho detto detesto, è diverso. Ecco, detesto. John Peter Sloan è uscito con un nuovo libro, Welcome to Italy, come va, come pronuncia, edito da Dea Planeta. E allora, io leggevo questo libro, che è un po' la storia della vita di John Peter Sloan, del suo amore per l'Italia, perché diciamo, tu ami questo paese. Però l'esordio, cioè l'esordio, proprio il primo capitolo racconta dell'arrivo di John Peter Sloan in Italia in aereo. E io proprio quando raccontava John Peter Sloan dei passeggeri italiani che incrociava in aereo, io vedevo Leonardo Manera, che è terrorizzato di volare. Sì, l'ho detto più di una volta, volare è innaturale, è contro natura, quindi bisogna avere paura. Quindi l'impatto di John Peter Sloan in aereo con gli italiani com'è stato? No, allora, la cosa, vedi, perché qualcuno mi ha detto, ah, ma questo è un stereotipo, un luogo comune. Ho detto, no, ma non è così semplice, allora... nell'aereo c'era la turbulenza sopra la manica, ho visto chi prendeva in mano gioielli di famiglia, no? Cioè chi si metteva le mani lì. Sì, e chi pregava, ma cose, le vedevo gli inglesi abbastanza tranquilli, no? Perché l'inglese, penso, ci fidiamo molto della statistica, è più probabile morire da un calcio di un asino che in aereo, ecco, e questa per me mi basta. Ho detto, vabbè, però si vede che gli italiani hanno una paura un po' strano, esagerato di morire. Poi atterriamo a Milano e vedo come guidate e dico, no, Non abbiamo, cioè, paura, non hanno di paura di morire. Anzi, l'inglese diventa Leonardo Manera in aereo, l'inglese diventa quando vai in macchina con un italiano. Certo, perché tu in macchina hai notato, insomma, il traffico e poi la gente che suona, gente attaccata al clacson, questa cosa per l'inglese. No, ma anche come rischiano la vita. A un inglese vedere come guidano, poi in Sud Italia, figurati, cioè lì è... C'è veramente pericoloso. Mm-hmm. Però queste sono pagine di amore per l'Italia. Tu ami questo paese. Allora, faccio una precisione, però, perché io ho detto sempre: io vivo ora a Menfi, in Sicilia. Bellissima mare, bellissime i campi, tutto quanto, però se c'è la brutta gente, non vale niente. No? No, certo. Quindi è gente che fa posto, sempre. L'Italia è bello per gli italiani, questa è una cosa che lo dico soprattutto. Poi il fatto che è anche bella e che ha tutti questi meravigliosi tesori è un bonus, diciamo. Però ho voluto dall'inizio a capire l'italiano. Questa è stata una... a capire, cioè volevo essere così stiloso, così elegante, così divertente, così comunicativo. Vedevo l'italiano e vedevo un tipo di persona che volevo essere io. Quindi ho cercato a capire, perché tante cose, voi siete italiani, quindi siete nati così, avete nelle DNA certe cose, io ho dovuto impararla, sì, diciamo. Però anche se bello. Poi dire italiani, per esempio in Sicilia, saranno molto diversi, no? Come modo infatti, di vivere qui da Milano. Infatti John Peter contesta il detto tutto il mondo è paese. No, ci sì, sono proprio... Sì, hai ragione, ma italiani sono italiani però. Sì. Cioè io dico, allora noi siamo ora, noi in questo secondo non siamo in Italia ora, siamo a Milano. Mm-hmm. E questo allora ufficialmente si chiama parte dell'Italia perché l'italiano capisci sempre dove va nella guerra, no? Dall'ultimo 5 minuti chi vince, però this is not Italy, no? Cioè questo è Milano è un ufficio, è una città molto nordico, molto germanico, però si salva perché è pieno di italiani. Però tu vedi che anche a Milano quando poi c'è un po' di sole vanno giù. Cioè tutti vanno giù. Io sono meteoropatico. No, ma aspetta, ma milanesi, poi quando lo vedi in Sud Italia sulla spiaggia, lui dice io sto bene perché c'è il sole. No, stai bene perché sei tornato a casa tua. Quindi dice che la vera natura degli italiani è quella, diciamo, meridionale. Sì, bravissimo. Però ecco, John Peter Sloan, l'anima dell'italiano è quello, sì. Non risparmia delle critiche. Per esempio racconta del primo concerto. Attenzione perché qui entri in un ambito pericoloso. Il primo concerto che va a vedere in Italia, che è un concerto, a un certo punto dice, cioè mi volete dire che questo cantante è meglio di, e fa tutto un elenco di cantanti inglesi, no? Chi sei andato a vedere? Biagio Antonacci? Sì, no. Vasco Rossi, attenzione, sì. Qui c'è la critica a Vasco Rossi. Allora, io ho attaccato certe cose, perché io non è che ho fatto soltanto tutto mieloso sull'italiano, no, certo, anche infatti. Quello che non va, non va, no? Allora, però io, l'unico volta che D'Agostini mi ha chiamato, era sul pezzo che ho scritto su Vasco, su che Vasco, loro mi hanno chiamato, hanno detto, ma sei sicuro che vuoi, ho detto, minchia, cioè, come sei sicuro? Cioè, ha criticato Padre Pio, metti Padre Pio e non mi chiama nessuno, metti Vasco, cominciano a tremare le gambe. Ma sai che questa su Vasco è un'opinione che condividono molti musicisti? Certo. Cioè le persone che si intendono di musica non apprezzano particolarmente, cioè, a un certo Vasco punto, pagina 86, cioè mi volete dire che questo cantante, cioè Vasco Rossi, sia meglio di Freddie Mercury, Elton John, Mick Jagger, John Lennon, David Bowie, no, Paul McCartney, Ed Sheeran, Ozzy Osbourne, George Michael, e ne elenca certamente decine. Allora l'Italia è numero uno nel mondo per cucinare, per moda, per biologia, scienze, pionieri, artisti, cioè arte, siete il numero uno, arte, la musica, ma la musica nasce a noi, dai. Mamma mia, abbiamo solo quella, abbiamo. Vabbè, c'è stato Fiordaliso, per esempio, non voglio mica Albano la luna. Albano e Romina. Oh, mamma mia. Albano e Romina, cioè perché... Poi c'è l'altra, Tintoria di Luna. Tintarella, Tintoria. Tintoria di Luna. Ti prego, Tintoria di Luna. Più bello, suona più bello. Tintarella di Luna fu fatta da Gabber e Iannacci, quando si chiamavano i Pirati, a cantare un incontro. Però Ale, scusa, quella cosa di Vasco, apro. Io, quando sono arrivato, musicista, ho detto, voglio... a vedere numero uno artista in Italia, Vasco Rossi, e mi hanno portato a vedere Vasco Rossi. Allora da musicista ho detto ok, è rock americano abbastanza mediocre, no? Niente di che, non è un cantante di nessun voce speciale, anzi sì. Però ho concluso che è una cosa, sono affari vostri, cioè per me Vasco è vostro Bob Dylan, no? Ah, certo, ecco, perché Bob Dylan, se tu non non capisci quello che sta cantando, cioè, cos'è sto roba? Certo. È un naso che canta, ma cioè, è quello che c'è intorno, è quello, certo, che c'è intorno. Bob Dylan parla con una generazione di americani, è quello che hanno passato, e sicuramente Vasco sta facendo uguale, ma se tu non capisci cosa sta cantando Vasco Rossi, sì, e vieni, sì, dall'Inghilterra, non ti colpisci niente. Siamo qua in diretta negli studi con John Peter Sloan. Non lo dovevi fare, hai scatenato l'inferno in diretta. Devo dire, tantissimi. Enrico dice: ha ragione John, il rock non è roba nostra. Finalmente qualcuno che dice la verità su Vasco Rossi. Quanto ha ragione su Vasco, dice Sam. Vasco Rossi non sa cantare, ma cioè, ci sono anche gli arrabbiati. Sì, gli arrabbiati. Ragazzi, non peggiorate le cose. Già mi hanno bucato le gomme ieri quando l'ho fatto, quando l'ho detto io stamattina. Cioè, in effetti, capito che io non so cantare, lo dice qui John Peter Long. Che se tu, questa gente, in effetti, capito che se mi vengono a vedere, qualche motivo ci sarà. Grande. Invece ovviamente ci sono quelli che dicono: ecco, deve rifugiarsi in Sicilia per essere protetto dopo aver detto, sì, questa cosa su Vasco Rossi. No, ma neanche, perché anche in Sicilia se, ma qui Vasco è Dio quasi, sì, un po' come Diego a Napoli, diciamo. Beh, sai perché una volta l'ho criticato Diego Maradona e cioè non poteva andare a Napoli per un anno, no, lo stesso di Totti a Roma, ci sono, certo, dei personaggi che non puoi toccare, sì, in Italia. Però è bello perché John Peter Sloan dice giustamente: primeggiate in tante cose e la musica è, se basta, non potete, cioè, essere il numero uno in tutto, mamma mia, lasciati anche agli altri qualcosa, oh. Senti un po', a proposito di comunicazione, legge Leonardo un brano dal libro Welcome to dal Italy, capitolo intitolato Comunicare. Ecco un buon esperimento da provare la prossima volta che incontrate una persona inglese. Chiedetele come è fatto un cerchio. L'inglese medio impiegherà 10 minuti buoni cercando di descriverlo, parlando della circonferenza, del raggio, dei gradi, della rotondità e tutto il resto. E alla fine di quei 10 minuti non saprete ancora di cosa diavolo stava farneticando. Poi fate la stessa domanda a un italiano. Disegnerà un cerchio in aria con il suo dito. Lavoro fatto. 5 secondi ed è tutto chiaro. Ed è tutto chiaro. Per, come mercato di istruzione non possiamo imparare, no, possiamo solo da imparare dall'italiano, ma guarda soltanto come il 40% è gesti, cioè gli italiani possono, ecco, parlare. Perché noi gesticoliamo tanto? Per esempio nel mondo anglosassone questo non è... Non perché è... l'Italia era una collezione di diversi paesi, prima che l'Italia era unita, parlavano praticamente solo, certo, dialetto in certe regioni, quindi... ci capivamo così. Sì, bravo, vi facevate capire molti con i gesti. Infatti se guardi un po' la storia dei gesti italiani, sono bellissimi, perché c'è questo, noi siamo in radio quindi non posso farlo vedere, però questo qua, cosa ti sto facendo ora, sì, sì, ti, sì, spiegalo. Che vuoi? Questo vuoi? Magari viene da Napoli, questo che ti tocca la faccia per dire buono, questa viene da Sicilia, l'altra viene da Venezia, cioè ha una storia ricca. È bello. Sì, ma come il pelle rossa, uomo, cavallo, scimbabba, uscita. Ma in fondo, se tu dovessi fare un po' un bilancio della tua vita, hai più preso dall'Italia o hai dato? Perché chissà quante persone hanno imparato l'inglese con John Peter Sloan. Quante persone hai calcolato? È stato veramente un... tantissimi. Quello è stato... Però vedi, è stato mio fortuna, è stato proprio l'amore è di capire bene la mente italiana e voler capirla per insegnarla. Perché come io, cioè, adesso se poi posso dire, ho aperto la nuova scuola a Milano, sì, a proposito, certo, e anche una a Roma, e nella scuola mia uso tantissimo il gioco, uso tantissimo, cioè i corsi di inglese che faccio io è proprio mirato all'italiano, perché tu hai il più grande comunicatore del mondo che è l'italiano, però se tu guardi la classifica dell'inglese in Europa sono molto più bassi di quelle che dovrebbe essere, per un genio delle comunicazioni dovrebbe essere molto meglio in inglese. Quindi sono andato a vedere, a capire dove erano i problemi con gli italiani, con la lingua inglese, e ho usato questo understanding, sì, per poi insegnare l'inglese in modo perfetto. Vediamo se ricordiamo, ricordati Leonardo, Black, Orange. Orange, questo, well done. Vabbè, ma mi ha colpito questo, ma perché, sì, Orange? Ci hanno insegnato dovunque Orange. No, magari se vi è insegnato così, perché l'hai appena detto all'americano, giusto, Orange dicono, alla francese lo dicono, Orange. Dicono invece, black, black, sì, arancione in inglese? Orange. Orange. Yeah. Però gli americani vi capiscono bene se parlate in modo inglese corretto? Non so, perché non parliamo mai con loro. adesso gli diamo una bella manganellata a John Peter Sloan. Adesso che avete la Brexit, non parlerete neanche più con noi. Anzi, saremo noi che non vorremmo più parlare con voi che avete votato questa roba di voler che uscire dall'Unione Europea. Non si sa ancora Europea. Poi come andrà a finire. Vabbè, non lo so. Dico, guarda Leo, guarda no, la dico, faccia. Non si guarda sa, la ma... faccia, tutti così adesso, perché io l'ho preso in giro un po' la politica italiana tante volte e adesso posso solo stare zitto, ecco. No? Il problema è che ora usciamo dall'Europa, tu sai, te lo dico, l'inglese purtroppo che vive in Inghilterra sono ancora convinti che noi siamo molto più importanti di quelli che siamo in realtà ora al mondo, hanno ancora questo... l'idea dell'impero, se tu parli con questi idioti in Inghilterra ora, dicono che guarda che dopo Brexit loro pensano, ti giuro, che abbiamo perso l'impero, ma ora lo rifacciamo con le navi, andiamo in giro a riconquistare il mondo. E invece. Ma se secondo te, se si rivotasse per questa Brexit, rimaniamo. Certo. Adesso il Remain vincerebbe. Assolutamente, cioè, vi siete resi conto come popolo che avete fatto una minchiata clamorosa. Senti, vabbè. Cos'è la cosa che ti manca di più dell'Inghilterra, però? No, ti giuro, aspetta, c'è qualcosa, perché stavo per dire niente, perché mi manca. Però ora ho ordinato 500 euro di cibo inglese. Online. Cioè sta a Menfi e ordina il cibo inglese. Ma quindi ti arrivano delle casse di birra? Steak and kidney pie, la torta salata con i reni, con i rognoni, haggis, che è lo stomaco della pecora tagliato con le erbe scozzese. Cioè ti piacciono le interiore? No, vabbè, ma quindi questo mi manca. Però vedi, ti dico che mi manca, però è facilmente... Adesso con online mi arriva tutto arriva quel che tutto, voglio. Arriva tutto. Allora, dai, in conclusione, leggete Welcome to Italy di John Peter Sloan, edito da Dea Planeta. Che dire, caro John? Dai, la cosa più bella e più brutta dell'Italia, in tutti questi anni, in questa lunga storia d'amore. Ok, ora mi avete tolto, non posso più parlare della politica, quindi... No, vabbè. Puoi dire no. Che è la più brutta la politica. Allora, la cosa più bella... Se posso parlare dell'italiano più che l'Italia, sì, no? Sì. La cosa più bella dell'Italia è che questo è assurdo. Quando io sono arrivato in Italia negli anni 90, c'era questa cosa degli italiani dal nord che volevano dividere l'Italia, no? Nord e sud, che era una minchiata assurda, perché tu pensa che io giro l'Italia per lavoro, uno che prova a andare da Catanzaro a Bolzano in 4 giorni, e tu vai da una parte africana, cioè come il continente africano, alla Germania, sì. E sei nello stesso paese, c'è questo tipo di diversità, è bellissima, e ce l'ha solo l'Italia, cioè l'Italia ha più diversità in un piccolo paese che alcuni continenti, mm-hmm. Mentre in Inghilterra se tu vai a Carlisle, la città più nord, e vai a Dover, la città più sud, l'unica cosa che... No, gelato più buono al sud. E basta, cambia il gelato. Ma non avete idea cosa avete in Italia, quanto è bella, cioè ogni regione, perché io giro sempre, ogni città, ogni paesino trova una cosa che se avessimo in Inghilterra sarebbe famoso, no? Certo. Sarebbe una cosa quindi, di cui orgogliosissimi. La cosa più bella è questa diversità, questa ricchezza di diversità, e la cosa più brutta, vabbè, la politica. La cosa più brutta è l'italiano è ancora individualista, e l'Italia è ancora più giovane, è troppo giovane, capito? È troppo io sto bene, non frega niente degli altri. Okay. L'italiano secondo me deve capire che finché stanno gli altri male, anche tu stai male. Infatti è l'unica cosa di Brexit che è buono per voi italiani, che vi passa la voglia adesso di ste minchiata di uscire dall'Europa anche voi. Almeno uno l'ha fatto e non ne parla più nessuno, neanche i politici italiani. Caro Leonardo, senti com'era sempre spumeggiante, no? John Peter Sloan, la sua caratteristica, quella di essere sempre molto, molto allegro, no? Una persona molto allegra, molto spiritosa, molto... Sì, sì. Anche nei momenti difficili lui è sempre molto grinta, questo credo fosse la cosa che lo contraddistingueva. Sì, e lo faceva anche molto amare, no? Anche con le sue provocazioni. E volevamo ricordarlo così, con l'ultima sua visita qui a Radio 24.

Beh, insomma, leggerete tutto e leggete tutto in Sicario, è la storia di Julian Sinanay che Andrea Galli ha raccontato per Rizzoli, lo trovate in libreria. Noi Andrea ti ringraziamo, perché è uno spaccato, ripeto, che sembra molto cinematografico ma è incredibilmente reale e vero, legato al forse il sicario più celebre e più attivo di quell'area, geografica. Dopo il traffico però vorrei consigliare anche un film. Io sto già cercando di spodestare Alessandra Tedesco dal suo ruolo con i miei consigli di libri. Adesso, sentendo parlare di Sicario, mi è venuto in mente anche un film molto divertente, anche che appunto dopo mi permetterò di citare, in modo che tutti gli ascoltatori possano gustarlo grazie ai miei consigli irrinunciabili. Ho capito, ma cosa c'entra? Perché la TED fa il cacciatore di libri, sì. Il film? E il film, perché io voglio spodestare anche Franco D'Assisti dalla Rosa Purpura. Ovvio, sei un ingordo sì. Della radio. Vabbè. Allora, dobbiamo chiudere questa puntata di Uno Nessuno 100.000. Adesso però ci hai lasciato con la curiosità di un film che ci dovevi consigliare per spodestare Franco D'Assisti. Attenzione. È forse il mio regista preferito. Il regista è Aki Kaurismäki, regista finlandese, e il film in oggetto è Ho affittato un killer. È la storia di... Dico rapidamente la storia, è la storia di una persona a cui tutto va male, decide di farla finita ma non riesce da solo perché c'è sempre qualcosa che va storto. Allora decide di affittare un killer per ucciderlo. Sì. Solo che poi, subito dopo che ha affittato il killer, che non saprà quando metterà in atto, diciamo, questo piano, incontra una donna della quale si innamora e allora non vorrebbe morire più. Cerca di contattare il killer nel bar dove l'aveva conosciuto, ma il bar è chiuso, quindi non lo trova più. E quindi va alla rincorsa di questo killer, lo cerca dappertutto, non lo trova. E anche il killer cerca lui, forse. Ecco, il killer invece trova lui. Bisogna capire e vederlo per vedere appunto come tutto. Va a finire. Va bene, io direi che con consiglio questa trama raccontata così male, Franco D'Assisti al posto assicurato. Consiglio anche forse il film più bello di Aki Kaurismäki, che è Nuvole in viaggio, che dal mio punto di vista è un capolavoro. Poi c'è La fiammiferaia. Sì. La fiammiferaia, che è un altro gran bel film di Aki Kaurismäki. Quanto vieni pagato dai tutti i parenti? Tutti, insomma. Allora, La fiammiferaia è un bellissimo film di Aki Kaurismäki dove per i primi 20 minuti non si parla e si vede solo la catena di produzione dei fiammiferi. Che amarezza. Una volta ho fatto vedere questo film a una ragazza che è venuta a casa mia, dopo mi ha lasciato. Amici ascoltatori, allegria! E incredibilmente dopo, neanche durante i primi 20 minuti. Va bene, ma visto che hai evocato l'arte, e quando si evoca l'arte, dal cinema si può fare un salto nella poesia. E ricordo che tu sei uno dei mentori, uno di coloro che ha scoperto l'arte del grande, il gigantesco, il grandissimo Orfeo Bastoni. È da un po' di tempo che non sì, ci racconti. È un nulla. Po' sparito Orfeo Bastoni dai nostri radar. E allora, in queste ultime puntate del 2020, cioè dell'estate 2020, ecco, ho pensato di riproporre alcune sue poesie, anche per mantenere fresco il ricordo nel cuore degli ascoltatori che amavano le poesie di Orfeo Bastoni. Li amano ancora, ricordiamo. Quindi adesso avrete modo di gustare, di ascoltare diverse poesie di Orfeo Bastoni, però come dicevo sempre, per entrare nel clima adatto bisogna in qualche modo adoperarsi in un rito propiziatorio, che è il seguente: essendo Orfeo Bastoni anche poeta dadaista, futurista e anche passatista, dadaista, futurista e passatista, necessita del seguente rito. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Questa si intitola Giovinezza. Sbrinza il corpo sgrollato dall'infanzia. Usbecca, Sant'Anchè la femmina, groisce il maschio Salvino, mentre l'uno e l'altra, abbrutolati dal nuovo sentire, dronano i nuovi territori dell'essere Zingaretti, novizi alle primarie dell'essere. Finché gingonia tra i due il primo bacio, la prima carezza, il nuovo, fiutolo amore, privo di esperienze e di coperture come novella legge di bilancio. Allora gringe e strabalza il letto e bozzano i pensieri cifoli e ormoniaci, mentre all'orizzonte cranga il futuro, turfo di ombre e plumbeo e cuperlo. È stupendo, perché capite come mette insieme l'arte con la legge di bilancio? Sono cose che questa era sconvolgono. Giovinezza. Giovinezza. Andiamo adesso con Ricordo di Riccardo. Ricordo di Riccarda. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Oh, Riccarda, ricordo i tuoi tronfi glutei valvoleggiare in strade, strampare i miei toninelli desideri, che mi facean dire strane parole. Ricordo il tuo bollico seno esordire orfino dalla tua fassina maglietta. Ricordo le tue besonze labbra zangare parole che alle mie orecchie pur parean mieliche, e i tuoi zivi denti biancucci stinzi che anelavo muoversi e pinzare le mie lobiche orecchie. Oh, Riccarda, quanti ricordi ancor oggi mi grovi e mi stumpi, sebbene lustri mi abbian congato la vita e mi renda stanco e canederlo. Va bene, Riccarda. Ora procederei cioè con Radoblando il Borgo. Radoblando il Borgo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mi ringo la mente radoblando il borgo da cima a fondo, squituzzolando i pensieri che balonghi mi sonvengono senza pause, e penso a Giacinta, che mai mi concesse il suo amore né volle gurullare meco, preferendo altri cigni al mio. Ma ella ci ribindava intorno a me ed illusioni mi zingarava il cuore. Quella femmina meazza e birinzina giuocava nella borsa orsa dal mio cuore, che però mai prese beneficio delle azioni sue. Ed ora io, cuperlo, vado radoblando il borgo, aspettando i minniti giorni che verranno, consapevole che altri mi attendono di capezzona solitudine nell'autunno del cuore che verrà. Non so se Orfeo Bastoni sarà contento di questo tuo modo quasi denigratorio, perché l'arte di Orfeo Bastoni andrebbe un attimo, vabbè, però fai tu, poi te la vedi tu col maestro. Solitudine capezzona. Da da da da da da da da da da da da da da da da. La solitudine è capezzona in una solinga vacanza. Stai prendendo in giro da, da, da, da, da, maestro, da, da, da, da, da. La solitudine è capezzona in una solinga vacanza ad Okotoku. La solitudine è capezzona in un orfino viaggio senza meta alcuna. La solitudine è capezzona in una garavaglia corsa all'imbrunire. La solitudine è capezzona quando in fronte a uno specchio mi colgo casellato e ingiallito nell'anima. La solitudine è capezzona infine quando canederlo al risveglio. Il gelo mi attende nel grovo e tombeo sentiero novembrino. Altro vorrei dalla mia vita, carnevali fiorelli e lisci gambuli femminei, ma mi ritrovo qui trabocco di capezzona solitudine a pidiare l'oscuro futuro che verrà. Beh, insomma, nonostante i tuoi tentativi un po' brutti, direi che possiamo leggere ancora, perché sì, oggi vogliamo proprio regalarvi tutta l'arte di Orfeo Bastoni, l'ultima. Questa dai, è un po' strana, è un po' diversa dal genere consueto di Orfeo Bastoni. Poesia col singhiozzo. Io ti amo ogni volta che balugi nuda di fronte ai miei occhi. Io ti amo ogni volta che sallusti i tuoi seni davanti ai miei occhi baranzati. Io ti amo ogni volta che tu tronfia salvini i tuoi desideri senza arretrare di un millimetro. Perciò io ti amo et nunc. Scusi maestro, il finale è geniale, geniale, devo dire. E va bene, se caro vuole. Leonardo, non credo che ci sia tempo per un'ultima poesia. No, direi che, vabbè, magari nei prossimi giorni, se vuoi nei prossimi giorni potremmo anche chiudere ogni giorno con una poesia di Orfeo Bastoni se c'è tempo. Oggi no, purtroppo, però ti ringrazio perché davvero sei uno scopritore di un'arte nascosta e ritrovata. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui anche per oggi. Ci troviamo domani alle 9 puntuali. State con noi. Sigla finale. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.